L'Istituto Geografico De Agostini presenta L'inglese per te. Primo livello. First level. Unità 7. Unit 7. Ascoltare. Listening. Le parole della stazione. Ecco una serie di vocaboli che riguardano la stazione e il personale che vi lavora. Alcuni li conoscete già. Cominciamo con i termini britannici. Railway. Railway station. Passenger. Ticket office. Information office. Left luggage office. Bureau de change. Timetable. Platform. Station master. Ticket clerk. Information clerk. Ticket inspector. Porter. Passiamo ora alla stazione ferroviaria americana. Railroad. Railroad station. Information bureau. Foreign exchange counter. Schedule. Ticket agent. Red cap. Che treno desiderate prendere? Un espresso? Un intercity? Un diretto oppure un tranquillo treno locale? Express train. Direct train. Intercity train. Through train. Local train. Slow train. Stopping train. Ecco infine i nomi del vagone ristorante, di quello self-service e del vagone letto. Restaurant car. Dining car. Buffet car. Sleeping car. Sleeper. Ascoltare. Listening. Dollari e sterline. Il nome inglese del biglietto lo conoscete già. Ticket. Ora ascoltatene la nomenclatura più precisa e completa. Railroad ticket. Single. One way ticket. Return. First class. Second class. L'unità monetaria degli Stati Uniti, come sapete, è il dollaro. Ecco com'è divisa in banconote e in monete. Dollar. One dollar bill. Ten dollar bill. Fifty dollar bill. One hundred dollar bill. Coin. One cent. Ten cents. Penny. Nickel. Dime. Quarter. Half dollar. Avete notato che il termine dollaro, parlando della banconota, è sempre espresso al singolare? La stessa cosa accade per la sterlina, l'unità monetaria della Gran Bretagna. Pound. 5 pound note. 20 pound note. 50 pound note. One penny. 2 pence piece. 10 pence piece. 50 pence piece. 1 pound coin. Ecco due modi per chiedere un biglietto, per esempio uno di sola andata e uno di andata e ritorno. I'd like a single to London, please. Could I have a return to New York, please? Ascoltare. Listening. Lo studio dell'orologio. Cominciamo con le ore esatte. Attenzione alla pronuncia della lettera O apostrofata. 5 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. Per esprimere le frazioni dell'ora si adoperano le preposizioni. Quando la particella past precede un numero che inizia con la lettera T, la T di past non si pronuncia. Questo accade di solito anche con le altre consonanti. 20 past 8. 25 past 1. 5 past 3. 10 to 1. 5 to 11. 10 past 2. 20 past 10. 10 past 9. 25 to 8. 20 to 12. 23 minutes past 7. 11 minutes to 9. Ascolterete adesso vari altri modi per esprimere l'ora. Sentirete che la lettera L di half e le due R di quarter scompaiono. Half past one. Half past ten. Half past three. A quarter past one. A quarter to two. 10:22 a.m. 5:04 p.m. 11:38. 3:09. Nearly 6 o'clock in the morning. Nearly half past three in the afternoon. Almost a quarter to seven in the evening. About 12 o'clock at night. Infine, ecco come si chiede l'ora e come si risponde. What's the time, please? Half past nine. What time is it, please? It's 4:25. Parlare. Speaking. Il prossimo treno per Bristol. Chiedere e capire certe informazioni alla stazione è molto importante. Ascoltate e ripetete allora questi brevi dialoghi. Excuse me, what time's the next train for Bristol, please? There's one at 6:36. Excuse me, what time's the next train for Bath, please? There's a local train at 9:13, arriving at 10:22. Excuse me, what time's the next train for Cambridge, please? There's an express at 9:49, arriving at 10:30. What platform? Platform number 3. The train now standing at platform 6 is the 5:13 for London. Calling at Cardiff and Newport. Platform 6 for the 5:13 for London. Parlare. Speaking. E ora parliamo di questo e di quello. Facciamo un po' di pratica con i pronomi dimostrativi. Prima di tutto ascoltate attentamente e ripetete this, these. Sentirete che nella prima parola il suono della vocale è molto più breve. This. These. Inoltre la prima S si pronuncia come nella parola rosso, mentre la seconda ha il suono simile alla S di rosa. Ascoltateli e ripeteteli di nuovo, insieme agli altri due pronomi dimostrativi. This. These. That. Those. Proviamo adesso ad inserire questi pronomi in alcune brevi frasi. This is my seat. That's our train. These are your tickets. Those are our cases. Riproviamo nelle frasi interrogative e in quelle negative. Is this my seat? Is that our train? Are these your tickets? Are those our cases? This isn't my seat. That isn't our train. These aren't your tickets. Those aren't our cases. Infine, sentiamo alcune frasi con questi stessi elementi usati come aggettivi. This train is going to London. That platform is for trains to Cambridge. Those people are going to Oxford. These children aren't going to Liverpool. Parlare. Speaking. Le dispiace se fumo? Ascoltate e ripetete le seguenti brevi conversazioni a bordo di un treno. Excuse me, is this a train for London? Yes, it is. Excuse me, is this seat free? No, I'm sorry, it isn't. Excuse me, is that seat free? Yes, it is. Do you mind if I open the window? No, not at all. Do you mind if I smoke? Of course not. Do you mind if I open the window? Please do. Do you mind if I smoke? I'd rather you didn't. Excuse me, what time do we get to London? At 9:25. Thank you very much. Conversazione. Conversation. Excuse me? Yes? What time's the next train to Sheffield? There's one at 5:15. Is it an express or a local train? It's an express. And what platform does it leave from? It leaves from platform 18. What platform is this? It's platform 1. What time is it now, please? It's 5:14. Oh, my God! Excuse me? Yes? What time's the next train to Sheffield? There's one at 5:15. Is it an express or a local train? It's an express. And what platform does it leave from? It leaves from platform 18. What platform is this? It's platform 1. What time is it now, please? It's 5:14. Oh, my God! Is that our train, Henry? No, Mabel. That's the train for Birmingham. Where's our train? Our train leaves at 6:36, Mabel. What's the time now, Henry? It's 4:00, Mabel. Oh. Have you got our cases? Yes, Mabel. These are our cases. But our cases are red. No, they're not, Mabel. Our cases are black. Are you sure? Of course I'm sure. And where are our tickets? I've got our tickets, Mabel. Where? Here. Oh, yes. Henry, there's a train, platform 9. Our train leaves from platform 8, Mabel. Henry? Oh, good grief. Is that our train, Henry? No, Mabel. That's the train for Birmingham. Where's our train? Our train leaves at 6:36, Mabel. What's the time now, Henry? It's 4:00, Mabel. Oh, have you got our cases? Yes, Mabel. These are our cases. But our cases are red. No, they're not, Mabel. Our cases are black. Are you sure? Of course I'm sure. And where are our tickets? I've got our tickets, Mabel. Where? Here. Oh, yes. Henry, there's a train at platform 9. Our train leaves from platform 8, Mabel. Henry? Oh, good grief. Do you mind if I sit here? Not at all. My name's Bruce. I'm Australian. Are you Australian? No, I'm not. I'm English. And what's your name? It's Nunn. Priscilla Nunn. That's a nice name. Do you mind if I smoke? No, please do. Thank you, Priscilla. Would you like one? No, thank you. I don't smoke. Oh. Well, Priscilla, do you mind if... Oh, dear. There's my train. Goodbye. Oh. Do you mind if I sit here? Not at all. My name's Bruce. I'm Australian. Are you Australian? No, I'm not. I'm English. And what's your name? It's Nunn. Priscilla Nunn. That's a nice name. You mind if I smoke? No. Please do. Thank you, Priscilla. Would you like one? No, thank you. I don't smoke. Oh. Well, Priscilla, do you mind if... Oh, dear. There's my train. Goodbye. Oh. Concludiamo la registrazione dedicata alla settima unità con due esercizi sonori. Per poterli eseguire, andate a pagina 138. Nei brevi dialoghi che seguiranno, sei viaggiatori acquistano il biglietto alla biglietteria della stazione. Ascoltate attentamente e scrivete negli spazi appositi il costo di ogni biglietto. Could I have a single to Tharso, please? Certainly. £15.40, please. I'd like a single to Manchester, please. £23.50. Could I have a return to Birmingham, please? Of course. £19.75. I'd like a one-way ticket to Miami, please. $56.90. Could I have a return to Gatwick, please? £3.45. I'd like a single to Wick, please. £8.60. Ascolterete ora 5 annunci all'altoparlante, in cui si danno le informazioni sui treni in partenza. Scrivete, accanto ai nomi dei luoghi di destinazione, il numero del binario da cui partiranno. The train now standing at platform 17 is the 519 for Oxford. Calling at Slough, Reading and Didcot. Passengers for Swindon and Bristol, change at Didcot Parkway. Platform 17 for a 5:19 to Oxford. The train now standing at platform 5 is the 8:56 for Sheffield. Calling at Doncaster and Rotherham. Passengers for Newark and Grantham should change at Doncaster. Platform 4 for Sheffield. The train now standing at platform 11 is the 12:03 for Manchester. Calling at Carlisle, Preston and Bolton. Passengers for stations on the Barrow Line should change at Carlisle. Platform 4 for Manchester. The train at platform 12 is the 5:36 for Birmingham. Calling at Bangor, Conwy, Rhyl, Chester, Crewe and Stafford. All passengers for the Blennerfest in New York line should change at Conwy. Platform 12 for Birmingham. The train now standing at platform 10 is the 10:27 to Bath. Calling at Castlecary, Frome, Westbury and Avonclough. Passengers for Reading should change at Westbury. Platform 10 for the 10:27 to Bath. Unità 8. Unit 8. Ascoltare. Listening. Fino a 6 cifre. Cominciamo con alcuni esempi di distanze in miglia. I numeri di questo gruppo sono compresi fra 101 e 199. 101 miles. 115 miles. 160 miles. 177 miles. 183 miles. 199 miles. Ricordatevi però che 100 si può anche dire così. 100. Adesso ascoltate altri esempi di numeri da 200 a 1000. Noterete che la D di and non si deve sentire quando è seguita da una T. 210. 283. 366. 422. 591. 604. 704. 817. 999. E così arriviamo a 1000. Ascoltiamo alcuni numeri da 1000 a 1099. 1002. 1052. 1034. 1099. A questo punto bisogna prestare attenzione, in particolar modo, all'intonazione dei numeri in presenza della virgola. 1288. 1944. 11,635. 29,459. 100,000. 999,999. E infine, 1 milione. 1 million. Ascoltare. Listening. Il lessico stradale. Ascoltate con attenzione i vocaboli di cui nel testo vi è già stato indicato il significato. Sentirete sia la voce inglese sia la voce americana. Way. Road. Motorway. Freeway. Expressway. Turnpike, highway, Trunk Road. Main Road. A Road. B Road. Bypass. Ring Road. Beltway. Ed ecco una serie di altri termini stradali. Interchange. Intersection. Crossroads. Traffic lights. Crosswalk. Zebra crossing. Bridge. Left hand. Right hand. Roundabout. Traffic circle. Infine, sentite come si dice dare la precedenza nella versione inglese e in quella americana. To give way. To yield. Ascoltare. Listening. Motore, ruote, fari, eccetera. Cominciamo con l'automobile e con i nomi, inglesi e americani, delle parti che la compongono. Car. Automobile. Coachwork. Engine. Radiator. Battery. Headlight. Wheel. Bare wheel. Tire. Tire pressure. Brake. Boot. Hood. Trunk. Bonnet. Oil. Water. Petrol. Gas. Gasoline. Flat. Ora la stazione di servizio e il meccanico. Petrol station. Gas station. Mechanic. Infine, ascoltate come si chiede la benzina, oppure un controllo dell'olio o della batteria. Could I have 10 pounds worth of petrol, please? Could I have $10 worth of gas, please? Could you fill her up, please? Could you check the battery, please? Could you check the oil, please? Parlare. Speaking. Esercizi sui pronomi oggetto. Ed eccoci ai pronomi oggettivi. Ascoltate e ripetete. Me. You. Him. Her. It. Us. You. Them. Ed ora risentiamone alcuni in brevi conversazioni. Could you fill her up, please? Yes, of course. Have you got the tires? No, I haven't got them. Could you help me with my car, please? Certainly, madam. Parlare. Speaking. La strada giusta. Capire le indicazioni stradali e saperle fornire in modo corretto è sicuramente un buon esercizio. Provate allora con queste frasi. Turn left. Turn right. Go straight on for 10 miles. Take the first right. Take the second left. Take the first right, second left, and third right. Go straight on at the roundabout. Turn left at the traffic light. Take the ring road and turn left at the second roundabout. Ora, fate un po' di pratica con queste brevi conversazioni. Could you tell me the way to Cambridge, please? Yes. Straight on at the traffic lights. It's about 3 miles. Thank you. Excuse me, could you tell me the way to Thurso, please? Go straight on for about 3 miles at the roundabout, turn left. Excuse me, could you tell me the way to Oxford, please? Of course, go straight on at the first roundabout, turn left. That's the A40. It goes straight to Oxford. Thanks very much.